fiducia in se stessi può essere correlata al grado di consapevolezza che si possiede? In che modo il livello di coscienza di una persona si relaziona con la sua capacità di avere fiducia in se stessa? Siroblio, Dido, fiducia in me stesso, arrovellato nei cruci. Non temere mai di dire al mondo chi sei, non farlo. Vedo in tutti uno psicologo con gli occhi lampeggianti. Baratto la sconfitta, un'altra fitta coi passanti. Ho dato vita a due impostori, non sono mai riuscito a fare sogni senza fare dei bisogni. I miei padroni, io non faccio mai fagotto dei miei potenziali. La mia verità è casuale come un lancio di dadi. Se mi parli mi deprimo, guardo solo il tuo profilo. Distratto perdo il filo come un bimbo dell'asilo. Cedo al mio materialismo per colmare questo vuoto con sei firme da strozzino in questo circolo vizioso. Dimmi cosa fare, Dido, son rimasto così solo. Se mi guardo nello specchio non mi sento ancora un uomo. Ma se la fiducia è la palpebra dell'anima, sono come luce, come piume, penna anonima. Io credo all'improbabile, non credo all'impossibile. Trattato a pesci in faccia, martoriato dal mio simile. Ancora non mi stanco delle mie calunnie. È bassa la mia stima, mi etichetto dentro un bunker, perdente da due soldi, messia di un mondo sterile, bugiardo con me stesso fino al giorno della lapide. Diverso in un giorno di sole, io scoprirò me stesso, il mio angelo custode. Paura non avrò, sarò in equilibrio e ridisegnerò la luce nel buio, un'altra identità. È un'altra alba che si specchia nei tuoi occhi stanchi. È un altro giorno che ti aspetta ma non sai ambientarti. E non è la mia voce, questa è la tua coscienza. Da adesso metti in croce la loro diffidenza. Pensa, è più facile arrendersi che ammettere a se stessi gli sbagli per poi riprendersi. Metti in piazza i tuoi problemi e fatti compiacere. Datti una scusa per continuare a piangere e bere. Per capire quanto siamo fortunati, abbiamo bisogno di vedere chi sta peggio, soli e condannati. La vita ti sbatte in faccia e non si ferma, no. Vedi l'inferno poco prima di spaccarti a terra. Hai solo una scelta, devi pensare in fretta. Tu riprenditi tutto ciò che ti spetta. E la noia è nell'ordinario, non scappi perché non sei tu che ammazzi il tempo, ma il contrario. Diverso in un giorno di sole, io scoprirò me stesso, il mio angelo custode. Paura non avrò, sarò in equilibrio e ridisegnerò la luce nel buio, la via. Diverso in un giorno di sole, io scoprirò me stesso, il mio angelo custode. Dubitate di tutto, ma non dubitate di voi stessi. Un'altra identità. Siroblio, Dido, Yuga Flame, Albe sul beat. Un'altra identità.